A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sacro e profano nell'appuntamento di oggi. Io partirei forse con il profano, cioè con le ultime di mercato. Tra poco ci colleghiamo con Sky Sport 24 perché ci sono, è una giornata in cui ci sono affari in corso. Poi avremo in materia, a questo proposito, una formazione di flop player della Serie A 2011-2012. Perché? Ma perché in queste giornate di trattative frenetiche, di centinaia di giocatori che vengono trattati, poi magari si dimentica che fine fanno alcuni di loro, certo mica tutti, ma alcuni di loro che per giornate, per lunghi periodi hanno occupato le prime pagine dei giornali e sono giocatori di un livello. C'è una curiosa formazione allestita da Franco Piantanida che ci dà un'idea un po' di come siano caduche poi le cose umane anche da questo punto di vista. Il ritorno di Zeman a Roma certamente ha fatto una discreta sensazione, perché è un ritorno in piena regola ed è un ritorno a distanza di tanti anni. Allora comincerei a sentire un frammento su questo argomento, il primo contributo, perché ne abbiamo selezionati tre. Zeman va ascoltato con le dovute pause, bisogna prendersi il proprio tempo per sentire. Zeman sapeva che sarebbe tornato, eccolo qua. Vabbè, per contratto ci ha pensato la società, poi io la penso sempre come la pensavo prima. E cosa mi ha convinto? Io vivo, abito a Roma da 18 anni, quindi la città me la sento mia, la squadra della Roma, ripeto quello che ho detto, io nel 99 mi sono prefissato che prima o dopo tornerò. Sono tornato, sono felice e spero che dopo la stagione calcistica saranno felici anche gli altri. Il solito Zeman che non ha cambiato passo, no? Nemmeno da un punto di vista dialettico. Gli hanno fatto mille domande nel giorno del suo reinsediamento sulla panchina giallorossa. Una riguardava Luis Enrique, sentiamo. Ma io penso che ogni allenatore ha le idee sue, lui ce l'ha, per me molte sono anche buone, io magari sono un po' più proiettato verso la porta avversaria. E questa è già un marcare differenza. Sul fatto di proteggere la propria porta credo che siano due gemelli separati alla nascita. Sul fatto di proiettarsi verso quell'avversaria sto con Zeman, nel senso che è vero. Gli schemi d'attacco di Zeman sono di tutt'altra efficacia. Zeman, a proposito di arbitri, perché voi sapete che lo scorso anno Luis Enrique, dando una grande lezione di signorilità ai suoi colleghi italiani di arbitri, non ha veramente mai parlato. Zeman non è tanto d'accordo su questo punto. Io penso che è sbagliato, però se la società dice che non si deve dire, io, visto che sono dipendente, non ne parlerò. Però io penso che non succede niente se si dice che un arbitro ha sbagliato qualche cosa, come quando dirò che un mio giocatore ha sbagliato qualche cosa. A proposito di mercato, sempre in attesa di perfezionare questo collegamento, Pandev ha firmato con il Napoli e sarà legato al Napoli appunto fino al 2015, con un'opzione anche per la stagione successiva. Pandev giocava già nel Napoli, ma era in prestito dall'Inter ed è stato riscattato per una cifra che dovrebbe aggirarsi sugli 8 milioni di euro. Quindi una prima trattativa andata a segno. Allora, questa formazione dei flop player, che magari, non so, incuriosirà qualcuno di voi che siete in ascolto e che poi immagino come ogni giorno interverrete all'800 24 00 24. Allora, sono giocatori che tra infortuni e misteri vari non hanno lasciato traccia, nonostante si tratti di giocatori di qualità, in alcuni casi di primo livello. La formazione potrebbe essere Rubinho del Palermo in porta. Io vi do anche i guadagni, cioè quello che quello che questi giocatori guadagnavano, moltiplicate per due e avrete il costo per la società. Rubinho Palermo, 800.000 euro di contratto, ha rescisso a dicembre dopo che era stato messo misteriosamente fuori squadra e aveva giocato una partita in primavera. Difensori esterni, a destra Sisinho della Roma, ha giocato due partite in tutto l'anno, adesso pare che sia tornato in Brasile, non so da quanto tempo stesse svernando, no, più o meno dalle parti dell'Olimpico di Trigoria, comunque guadagnava 2,3 milioni di euro l'anno e ha giocato due partite. A sinistra ci mettiamo Fabio Grosso. Fabio Grosso stava alla Juve, 1,5 milioni di contratto annuale, due partite a titolare inizio stagione con il Siena e il Catania e poi la sparizione. Un laterale, un centrocampista, Donadel del Napoli. Donadel era era una discreta colonna, seppur a rotazione del centrocampo della Fiorentina. Lo ha voluto il Napoli per integrare la sua rosa. È costato, guadagnava 1 milione di euro, ha giocato 0 partite, causa anche un sacco di infortuni, comunque 0 partite. Matteo Brighi nell'Atalanta ha giocato 11 partite per 1 milione di contratto, un contratto robusto per essere l'Atalanta. Un altro atalantino, Ferreira Pinto, per 500.000 euro, 7 partite. Poi arriviamo a Jorge Martinez del Cesena, 1,5 milioni di contratto, no? Quindi una cifra per Cesena di quelle robuste, anche se 1 milione era a carico della Juve, che lo aveva preso, l'aveva pagato a peso d'oro l'anno prima dal Catania, e quindi 1 milione a carico della Juve, 500.000 a carico del Cesena per Jorge Martinez, desaparecido totale. Marchionni della Fiorentina ha giocato 8 partite per 1,2 milioni. Cristiano Lucarelli ha giocato 3 partite nel Napoli per 500.000 euro, e poi ci sono due juventini che chiudono, che sono due esterni. Uno è Krasic, che ha guadagnato 1,8 milioni e ha giocato 7 partite, o meglio spezzoni di 7 partite, mentre Elia, che guadagnava 1,5 milioni, ne ha giocate soltanto 4 ed è uno dei flop player indubbiamente della scorsa stagione. Che poi la Juventus abbia ugualmente vinto il campionato significa che evidentemente non sempre non sempre si azzeccano tutti gli acquisti e ogni tanto qualcuno compensa, no? Compensa gli eventuali errori di mercato. D'altra parte quelli che indovinano tutto non esistono nel calcio. Nel calciomercato in particolare vince chi ha ragione, chi sbaglia di meno. Prima dell'intervallo sentirei ancora Maran. Perché? Perché Maran è l'allenatore del Varese. Stasera parte la sfida finale per la promozione in Serie A, dopo aver eliminato tra mille polemiche Sassuolo e Verona. Stasera Varese e Sampdoria si giocano la finale d'andata dei playoff. Sentiamo Maran. La Sampdoria era la favorita del campionato. Perché per organico, per blasone, per tutte queste cose, però non sempre vincono i favoriti. In questo momento abbiamo la fortuna e la bravura, ce la siamo guadagnata sul campo, di essere anche in vantaggio negli scontri diretti, e dovremmo dimostrare, dovremmo cercare di far fruttare questo vantaggio. Ed ecco perfezionato il collegamento con Sky Sport 24, in particolare con Gianluca Di Marzio. Buongiorno Gianluca. Ciao Gigi, buongiorno a tutti, ciao. Senti, so che ti stiamo rubando dei minuti preziosi, però insomma, facci un giro d'orizzonte. Mi pare che l'operazione forte di queste ore sia quella Isla Asamoah dall'Udinese alla Juventus, oppure c'è già qualcos'altro di più attuale? C'è Pandev che è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli, quindi in attesa di perfezionare i dettagli sulla cessione di Lavezzi al Paris Saint-Germain, che però è ormai cosa fatta, manco soltanto l'annuncio. Diciamo che il Napoli riparte intanto da Pandev, che diventa tutto azzurro, era soltanto in prestito, un'operazione da 7,5 milioni di euro e un contratto di 3 anni più opzione per il quarto a Goran Pandev, che è legato, ha detto quasi a vita, perché vorrebbe chiudere la carriera nel Napoli, quindi comunque un gesto da parte sua importante. Adesso capiremo anche il Napoli come continuerà, diciamo così, questa sua campagna di rafforzamento, e se arriverà un top player in attacco, quindi se per esempio Jovetic resterà soltanto un sogno o può diventare realtà. Jovetic mi pare lo stia inseguendo anche qualcun altro, però. Sì, ci sono delle situazioni diciamo in Inghilterra, non dico abbastanza aperte, però dei sondaggi fatti da alcuni club inglesi, quindi bisognerà capire intanto la volontà della Fiorentina. se deciderà di privarsi del suo miglior giocatore, a che cifra anche, perché credo che hanno meno di 30 milioni di euro si siederanno a parlare, e poi se il Napoli avrà intenzione di investire più della cifra incassata dalla Lazio, perché ha preso 27,5 su un altro giocatore come Jovetic. Ho visto in sovrimpressione già da parecchio tempo stamane che c'è la Roma interessata, mi pare aver capito, a Giuseppe Rossi. Sì, questa è una cosa particolare, devo dire la verità, perché prendere un giocatore che è un giocatore importante come Giuseppe Rossi, ma che rientra tra 10 mesi, insomma, sarebbe un rischio, devo dire, anche affascinante, perché vorrebbe dire puntare intanto sul talento di Giuseppe Rossi, ma con, ripeto, dei rischi, visto che gli è stata sbagliata la prima operazione al crociato, è stato ripulito il ginocchio, adesso tra 2 mesi e mezzo si rifà nuovamente un'operazione al crociato, quindi comunque vorrebbe dire fare un'operazione un atto di fede a metà prezzo rispetto a quello che poi arriva, certo. 10 una, milioni rispetto ai 20, una scommessa indubbiamente. Senti, questo Isla Samoa mi sembra, però, se va in porto, adesso ce lo direi tu, mi sembra fin qui l'operazione cardine, direi, di tutto quello che è accaduto, perché questi sono due grandi giocatori, Direi di sì, direi che manca la conclusione in particolare dell'accordo con i giocatori che si trovano in questo momento all'estero, quindi devono arrivare in Italia, visite mediche, firme, però siamo ormai al perfezionamento di un'intesa che c'è stata ieri, 15 milioni di euro per le due metà, quindi 7,5 e 7,5, ma i rapporti tra Juventus e Udinese sono talmente buoni che la Juventus riscatterà sicuramente poi gli interi cartellini l'anno prossimo, quindi un'operazione totale da 30 milioni di euro, diciamo, divisi in due anni. E, insomma, sono due giocatori da conte, due giocatori che possono fare più ruoli, tosti, che hanno già accumulato un'esperienza importante in Italia, quindi sicuramente due grandissimi colpi, in attesa di capire anche Verratti che fine farà. Ieri era sul punto di firmare con l'Inter, poi la Juve ha bloccato tutto. È una bella sfida di mercato tra Juventus e Inter, tra qualche dispettuccio che c'è in questo momento. Inevitabile, non solo in questo momento, ma l'Inter, così a occhio, compra o vende? L'Inter intanto vuole, da quello che ho capito in queste ore, vuole liberarsi di due ingaggi pesanti come Maicon e Julio Cesar, che evidentemente per la società hanno fatto il loro tempo. Guadagnano 5 milioni netti a stagione. Netti. Mm-hmm. Quindi sono 10 lordi per la società. Certo. Quindi se dovessero arrivare degli acquirenti, e pare che per Maicon possa essere la volta buona con Real Madrid, credo che l'Inter li lascerà andare. Quindi l'Inter è su Handanovic come portiere, un portiere che può durare ancora 7-8 anni almeno a questi livelli. E poi vorrebbe fare di tutto per prendere Lucas, che è il sogno di Moratti, è un giocatore che Stramaccioni vorrebbe a tutti i costi. Non è un'operazione facile, perché c'è anche Real Madrid, ma vogliono coinvolgere la Pirelli. Insomma, è un'operazione che andrà anche oltre il discorso tecnico, e l'Inter vuol provarci forse con una missione in Brasile nei prossimi giorni. Il domandone finale riguarda Thiago Silva e Ibrahimovic. Ma davvero il Milan vuol fare cassa provando a vendere uno dei suoi gioielli, oppure siamo nel fan? Tu credi a questo tipo di operazione? Ti risulta oppure no? Parlo sinceramente. Sì. Credo che se arrivasse un'offerta vera per Ibrahimovic, il Milan la prenderebbe veramente in considerazione. Un po' per il discorso che ho fatto precedentemente sugli ingaggi dell'Inter. Ibrahimovic guadagna 12 milioni di euro netti al Milan. Certo. Quindi se dovesse, ripeto, arrivare, ancora non è arrivata un'offerta concreta, e soprattutto se Ibra dovesse mettersi d'accordo poi con l'acquirente di turno, io credo che il Milan lo lascerebbe veramente andare. Il problema è che al momento non c'è questo tipo di prospettiva attuale, e c'è invece più per Thiago Silva. Cioè, ci sono più offerte per Thiago Silva, quindi credo che poi il Milan dovrà prendere una decisione più avanti, se davvero sacrificare Thiago Silva o se resistere alle offerte che, ripeto, ci sono e anche molto alte. Sono già arrivato a 40 milioni di euro, soprattutto da parte del Paris Saint-Germain per Thiago Silva. 30 secondi ancora. Nell'84 io ricordo Bagnoli e Mascetti, allenatore e direttore sportivo del Verona, partire, andare in Francia a seguirsi gli europei dal vivo e tornare con Briegel, che in tanti conoscevamo perché era un nazionale tedesco, e Elkjær invece, che nessuno sapeva chi fosse. Può accadere ancora anche nel calcio di oggi, alla vigilia degli europei, oppure tanto ormai si sa tutto di tutti? Devo dire che i nostri scout, ormai li chiamano così, sono abbastanza bravi, nel senso, sta crescendo una generazione di di osservatori italiani che hanno l'occhio giusto, l'occhio vivo. Quindi speriamo, ecco, perché andarli a prendere quando fanno l'europeo e li vediamo tutti in televisione, li possiamo scegliere anche noi da casa. Certo. E invece l'ideale sarebbero, visti gli stipendi che hanno anche questi osservatori, che fossero in grado di andarli a prendere prima dell'esplosione definitiva. Certo. Gianluca, grazie. Grazie a te Gigi, un abbraccio a tutti, ciao. Grazie davvero. Chiudiamo questo collegamento con Sky Sport 24. Qualche notizia è arrivata, qualcun'altra insomma, avete sentito, no? Potrebbe essere in rampa di lancio piuttosto che in dirittura d'arrivo. Adesso andiamo, allora, chiusa questa parentesi di... questa parentesi, che poi non era una parentesi di mercato, restiamo nel profano, in attesa magari di un paio di vostri interventi iniziali, restiamo nel profano e andiamo allora da Trapattoni, perché gli show di Trapattoni ai microfoni, beh, ai microfoni dovunque sia stato ad allenare nella vita, ma insomma attualmente ai microfoni delle conferenze stampa della nazionale irlandese sono davvero esilaranti. Questo minutino abbondante di ieri credo valga la pena di essere ascoltato, senza dimenticare mai che Giovanni Trapattoni, da Cusano Milanino, classe 1939, ha dunque, insomma, la sua rispettabilità di 73 anni. Sentiamo. Many years ago we won UEFA Cup in Bilbao. One of the best defender was our striker, because they push all in our box, all. There is one ball, only one ball. Or we have the ball, or we have the other. There is only one result. I don't know if play well or no. Io so, voi avete capito, perché questo è un concetto. Noi italiani lo abbiamo dentro questo concetto. È il risultato che conta. Poi centravanti o no. Loro qui non hanno i campionati loro. No, ma esatto, era Bettega. E in Irlanda non c'è il campionato. The reason the Liga, and maybe many see the Liga, it's very English clear Liga. To us Italians, because this is something that we're very, very used clear. To. But not for me. I was in Germany, I was in Portugal, I was, it's easy. Lui non può, cioè non so perché non capisce. Se è necessario essere lì invece che là, bisogna essere lì. Your opponent, go, make a cross, score, lose the game. Where was you? You stay in front. Without ball, lose the ball, e stai Ponzio Pilato, e the other, score gol. A Ponzio, per chi l'ha vista in video, alla citazione di Ponzio Pilato, la traduttrice, che già è collaudata, ma insomma non fino a questo punto, si è messa letteralmente le mani nei capelli. Perché a quel punto tradurre Ponzio Pilato agli irlandesi, Ponzio Pilato nel senso del... Ponzio Pilato era applicato trapattonianamente all'attaccante che non rientra, no? Che in un certo senso se ne lava le mani, no? Si lava le mani del suo difensore che gli scappa. E a quel punto le mani nei capelli sono state inevitabili per questa sventurata traduttrice. Giuseppe ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Ascolti, io la chiamo perché volevo avere un suo commento in merito alla vicenda del Piero. Mi spiego meglio. Mi ricollego al fatto che adesso lei ha introdotto nella trasmissione il soggetto del calciomercato, e volevo chiedere, secondo lei, ritornando a quando Del Piero fece quella comparsata su YouTube, poi a qualche tempo fa su Vanity Fair, quasi supplicando l'avvocato, non più l'avvocato, Agnelli, di tenerlo alla Juve. E adesso sembrava che avesse già una squadra disposta a investire su di lui, a quanto pare non è così, sembra che vadrà in Argentina, ma non è certo. Ecco, volevo chiedere un suo commento in riferimento a questo suo atteggiamento, a questo suo comportamento che ha avuto. Ma insomma, non mi sembra che sia molto difficile. La Juve gli ha chiuso le porte in faccia, no? Sia pure con grandi festeggiamenti, nella migliore delle occasioni, visto che la Juventus ha vinto un campionato che non si aspettava di vincere. Però gli aveva bucato il biglietto fin dallo scorso mese di ottobre, e a vidimarlo era stato il presidente in persona, quindi... Del Piero a questa realtà, che non avrebbe mai voluto, si è dovuto arrendere. Dopodiché, nonostante a novembre siano 38, ha deciso che si sente ancora di giocare, e quindi sta cercando sta cercando una soluzione, le offerte arrivano, come era prevedibile non arrivano offerte per il momento da club di primissimo livello, sarebbero forse arrivate da un paio o tre di club di primissimo livello italiano, ma in Italia Del Piero per una questione di coerenza e di rispetto alla sua carriera e ai suoi tifosi che lo hanno sempre idolatrato e continuano a farlo in larghissima maggioranza, in Italia lui ha chiuso la porta e quindi sta aspettando che arrivi una sistemazione all'estero. Io non ci trovo nulla di così misterioso. Arriva qualche messaggio a proposito dei flop player. Sono indignato, scrive Andrea, che manchi Forlan. Non era quello il parametro, flop non nel senso di mancato rendimento, perché sennò allora avremmo avuto l'imbarazzo della scelta. Flop nel senso di gente che non è stata, cioè che è sparita, che è letteralmente sparita dopo essere stata acquistata ed essere magari titolare in avvio. Cioè, ripeto, che Donadel quest'anno abbia giocato dal Napoli, secondo me è un fatto assolutamente misterioso. Che Sisigno fosse ancora a Roma, io l'ho scoperto ieri l'altro leggendo tre righe su un giornale che diceva Sisigno torna in Brasile, ma perché dov'era? È stata la domanda, eccetera. Questo era il... Insomma, l'idea di partenza, no? Di questa curiosa formazione di gente che un anno fa teneva banco più o meno sul mercato e poi per tutto l'anno non si è praticamente saputo più nulla di loro, nemmeno il discreto stipendio che nel frattempo continuava a correre. Sarebbe magnifico, scrive Aldo da Milano, sapere come è stato tradotto Ponzio Pilato. Aldo non è stato tradotto, gli ho detto, si è arresa la traduttrice di Trapattoni, si è arresa, non è la prima volta, ma stavolta si è arresa in pieno. Potremmo mettere anche Iaquinta in quella formazione, suggerisce Vanni da Cuneo. Ah, certamente sì. Anche Pato, aggiungerebbe Marco da Milano, che è sparito. Beh, insomma, anche Pato, se facciamo il rapporto tra ingaggio, che però lì ci sono stati tanti infortuni e quindi quindi è un po' diverso. In altri casi meno. Britos, per esempio, a Napoli, giusto per dire un altro, Britos ha avuto anche lui un infortunio abbastanza lungo, ma poi non ha giocato, anche quando era sano, non ha giocato nemmeno in caso di strage. Va bene, io chiuderei almeno al momento la parte profana, no, di questo appuntamento. Vi ho detto che ce n'era una invece che era sacra. Ha scritto stamane sulla sua amaca Michele Serra: oggi i calciatori azzurri in Polonia per gli europei andranno in visita ad Auschwitz. Non è una presenza scontata per almeno due ragioni. La prima, profondamente rimossa nella nostra memoria nazionale, è che l'Italia è stato il principale alleato di Hitler e dunque il principale complice dello sterminio. Chissà se qualcuno nella nostra delegazione avrà la volontà di spiegarlo a ragazzi di 20 anni comprensibilmente poco avvezzi alla riflessione storica. Il secondo è che il calcio, inteso come fenomeno popolare globale, è ormai da molti anni un micidiale incubatore dei razzismi vecchi e nuovi, e in specie dell'antisemitismo. Gli stadi europei sono forse l'ultimo posto al mondo dove vengono tranquillamente esposte svastiche e croci celtiche, e il saluto romano, un brevetto italiano, accomuna le curve nazionalfasciste di mezza Europa. I calciatori hanno in questo senso responsabilità enormi. Di complicità, a volte cosciente, a volte no, con tifoserie razziste e soprattutto di omissione di buon esempio. Il loro comportamento, le loro parole, il loro atteggiamento in campo, per esempio quando il pubblico insulta un negro, sono fondamentali, negro tra virgolette ovviamente. Lo sport è anche un potentissimo vettore di valori. La speranza è che questa mattina ad Auschwitz qualcosa scatti nella testa degli azzurri. Beh, a prima vista si direbbe di sì. C'è per la verità una mail appena arrivata da parte di un ascoltatore che dice che aver visto questi ragazzi, eccola qua, l'appena spedita Alessandro Portaluri, dice: bene, sì, lo so, lei si chiederà dove vivo, ma vedere la fotografia dei giocatori azzurri in visita ad Auschwitz con le cuffie sulle orecchie mi ha urtato. Mi ha fatto capire ancora una volta come il mondo del calcio sia totalmente al buio e fuori dal mondo. Se fosse stato mio figlio in quella fila di ragazzi con gli auricolari, si sarebbe preso uno scappellotto. Certo, però è anche vero che leggo su alcune agenzie che, oltre ad aver deposto corone di fiori, insomma, c'è stato, insomma, a un certo punto La visita si è conclusa con Prandelli e i 23 giocatori seduti sul binario della morte nel campo di Auschwitz ad ascoltare i racconti di Piero Terracina, di Anna Weiss e di Samuel Modiano, e molti di questi giocatori erano palesemente commossi. Allora, intanto sentirei la reazione che ha avuto uno degli azzurri, e cioè il portiere De Santis. Profondo lo sgomento, un rispetto assoluto. Noi dobbiamo sforzarci, dobbiamo impegnarci per conservare il ricordo e trasferire alle generazioni future la memoria, la testimonianza dei fatti e delle atrocità perpetrate in questo luogo. E poi c'è il racconto commento di Marcello Pezzetti, che ha accompagnato la delegazione italiana e che è il direttore del Museo Memoriale Italiano della Shoah. Questo è il modo più incredibile, più forte che hanno i giocatori per combattere quei segnali negativi, quello di venire nel posto dove il razzismo ha provocato i danni maggiori. Cioè, qui i giocatori capiranno che se non si ferma il razzismo si può arrivare a queste conseguenze. Quindi è il massimo esempio che abbiamo di fronte di negatività. Che lo facciano i giocatori e che invitino, come dire, i tifosi a farlo, questo è veramente fondamentale e li ringrazieremo a vita per questo. Voglio sperare, scrive Alberto, che le cuffie fossero audioguide in italiano, ma certamente questa è la spiegazione. Quindi la mail di prima, subito ho trovato una risposta, lo scrive anche un tassista milanese che ha seguito tutti i filmati di stamane. Proprio stamane, stamattina anche l'Olanda ha visitato Auschwitz e il capitano Van der Vaart ha detto che è stata un'esperienza che non dimenticherà mai. Tra l'altro, dopo Auschwitz la nazionale italiana si è spostata a Birkenau, un altro campo di sterminio dove furono uccisi 1 milione di ebrei, e che si trova a 3 chilometri dal lager principale. Beh, sentiamo Giancarlo, rientriamo immagino nel profano. Giancarlo ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno, dica. Io volevo aggiungere ai flop acquisti, in particolare riferendomi al mercato che ha condotto la Juve in questi ultimi anni, senza scavare troppo nel passato, quindi a Martinez, Elia e Krasic aggiungerei tranquillamente anche Toni, Borriello e Pazienza, perché effettivamente sono stati anche loro dei flop. Credo che la dirigenza della Juve non sia composta da tutti questi grossi fenomeni cui ci fanno credere, se uniamo anche le operazioni in uscita di Giovinco e Immobile, che possono essere due operazioni abbastanza discutibili secondo me. Aggiungerei che sono stati cambiati 3 tecnici nel giro di 2 anni e che la fortuna della Juve di quest'anno, non avere le coppe, si fonda sulla fortuna di un Barzagli che è stato praticamente comprato a costo zero ed è stato abbastanza un colpo di fortuna, e Pirlo. Vabbè, non è che puoi essere sempre solo fortunato quando indovini un bel giocatore e invece essere un incapace quando non lo indovini, no? Cioè si miscelano queste valutazioni, evidentemente, e quindi c'è il colpo che riesce e quello che non riesce. Alla Juventus i colpi non riuscivano da un sacco di tempo. Non vorrei tornare ai top player presunti da Felipe Melo e dintorni, che invece poi tali non si erano rivelati, ma una media mi pare che quest'anno poi nel rapporto qualità prezzo tra le scelte e i risultati la Juventus sia stata alla fine la più brava, no? Giustamente premiata dal titolo. La curiosità era quella di scoprire che con queste rose faraoniche di oggi anche la Juventus, che pure la Coppa non le giocava, aveva nelle sue fila alcuni giocatori che non sono serviti veramente a nulla, come altri non sono serviti a tante altre squadre. Silvio, provincia di Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Cercherò di essere veramente breve. Allora, mi colpì la dichiarazione fatta da Buffon dopo Milan-Juve o Juve-Milan, non mi ricordo, quando il pallone era entrato e non era entrato. Che era aprile più o meno, no? Ah, sì. Sì, no, no, adesso è giugno. Lo dico oggi perché ho tentato altre volte di intervenire, sì, ma certo, non ci sono riuscito. Allora, come farà Buffon a dire al figlio non ci dicono le bugie? No. Tra tante domande imbecilli che sono arrivate in questi 12 anni e mezzo che sono qua, questa credo che un posto di riguardo lo meriti, nel senso che lui non ha detto, perché dico imbecille? Perché lui non ha detto nessuna bugia, lui ha parato e basta, l'arbitro non è andato da lui e non gli ha chiesto, ripeto, a distanza di due mesi, perché... vedo che siamo su argomenti freschi. A distanza di due mesi credo di ricordare esattamente che l'arbitro non è andato da lui a domandargli: Buffon, ma sta palla secondo te l'hai presa dentro o l'hai presa fuori? Nessuno gliel'ha chiesto, l'arbitro ha valutato, aveva valutato esattamente perché aveva dato gol, il guardaline l'ha tratto in inganno e ha pagato a caro prezzo perché non ha più sventolato una bandiera da allora in campionato, e temo per lui che non gli accadrà più nemmeno in passato. E quindi perché? Per cosa dovrebbe dire Buffon al figlio? Cioè, a chi ha mentito? Assolutamente a nessuno. Ha cercato di fare il meglio che poteva e l'ha fatto, grazie all'incapacità altrui. Renato, provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ciao Gigi. No, io volevo parlare innanzitutto del problema degli ingaggi dei calciatori, visto che si parla molto di fair play finanziario. Sì. E quindi non so, volevo avere un tuo parere su una mia proposta. Cioè bisognerebbe agganciare una parte, diciamo, della somma da corrispondere ai calciatori al risultato raggiunto dalla squadra. Mi spiego meglio, cioè fare una base come obbligazione di mezzo e un'altra base come obbligazione di risultato. Questo potrebbe sposarsi bene con il fair play finanziario di cui tanto si parla, però poi alla fine difficilmente si realizza, collegato a quello che stava dicendo lei dei flop, quindi di calciatori poco utilizzati ma comunque poi pagati sui soldi denari. E io penso che questa cosa sarebbe utile perché consentirebbe di pagare di meno e poi dare il giusto ai risultati che verranno raggiunti man mano che si procede nelle varie competizioni. Ma insomma, si fa, in parte si fa non da oggi, si fa in alcune società più che in altre. Probabilmente andrebbe fatto anche di più, perché non so, io ricordo per esempio la Juventus degli anni 80 aveva questa, degli anni 70-80 in particolare, aveva questa politica di incentivi, nel senso che gli ingaggi non erano particolarmente più brillanti che altrove, anzi, però erano fortissimi i premi. Poi i premi magari erano anche, insomma, la Fiat allora era un'altra cosa rispetto a quella di oggi, per cui c'erano magari, ricordo alcuni giocatori della Juve che mi raccontavano: mi tocca andare in vacanza a Sestriere, faccio per dire, perché devo ammortizzare l'appartamento. Insomma, l'appartamento ha avuto appunto in premio dalla società piuttosto che altri benefit. Ma insomma, tutto questo aveva un senso legato nell'ottica che dice lei, e cioè meno guadagno fisso e più legato al rendimento. Quindi solo per dire che non è inedita questa politica, che forse andrebbe ripresa e magari ulteriormente incentivata. È in arrivo a Story nel ritiro azzurro. Il difensore del Cagliari, preconvocato da Prandelli dopo l'infortunio a Barzagli, a Story oggi alle 18 raggiungerà il ritiro azzurro a Cracovia. Dopo il preallarme di lunedì scorso, lui era in vacanza a Miami, se ho letto bene, e dopo soprattutto lo stiramento al poppaccio di Barzagli. Questo ancora non significa l'esclusione di Barzagli definitiva dalla lista, ma insomma è in pratica l'inizio della resa, nel senso che un giocatore stirato è il recupero, una manifestazione che dura una ventina di giorni, è praticamente irrecuperabile. Europei, e allora gli europei, no, la storia degli europei, il 6 giugno di Nicola Filippone. Sembra ieri. 6 giugno 1992. Nel giugno svedese più caldo degli ultimi 80 anni, iniziano a sbarcare nel paese scandinavo le squadre che daranno vita alla nona edizione dei campionati europei. La prima nazionale ad arrivare è anche la più attesa, la Francia di Michel Platini, che giocherà il match inaugurale contro la Svezia. Il quesito che rilanciano i giornali del continente è: riuscirà Louis Michel, con il blocco dell'Olympique Marsiglia e i gol del futuro milanista Jean-Pierre Papin, a conquistare da tecnico il titolo vinto da calciatore 8 anni prima? Quasi impossibile immaginare, in quel caldo 6 giugno svedese, che la Francia tornerà a casa con 2 pareggi e 1 sconfitta, mentre la Danimarca, che arriverà in Svezia solo 2 giorni prima del debutto perché ripescata al posto della Jugoslavia, butterà fuori francesi e inglesi per poi andare a vincere clamorosamente il torneo. Il numero di giornata, no, il numero europeo di giornata è 324, mi suggerisce Nicola Filippone. Sono i minuti di imbattibilità di Dino Zoff nell'edizione 1980 che si giocò in Italia, che non finì bene per la nazionale di Berzot, ma che comunque è il record assoluto della storia delle fasi finali degli europei. Zoff mantenne la porta imbattuta per l'intero torneo fino al secondo tempo di Cecoslovacchia-Italia, finale per il terzo posto all'Olimpico, finita 1-1, e poi vinta dalla Cecoslovacchia ai rigori per l'errore 8-7, se non ricordo male, per l'errore finale di Collovati. Claudio ha chiamato da Treviso, buongiorno. Buongiorno Granzini. Il suo parere su queste notizie, che io reputo eccessive, su tutto quello che fanno i calciatori italiani e soprattutto quelli della nazionale. Io stamattina ho sentito la notizia che sono andati ad Auschwitz, che stanno facendo questo tipo di, l'hanno chiamato pellegrinaggio, e a me sembra un eccesso di notizia, non passano come dei bambinotti ancora più viziati e forse un po' sciocchi. Queste persone di cui raccontiamo tutto e cosa che fanno, non è anche un po' colpa dei mass media? Grazie, l'ascolto per radio. No, io la penso esattamente al contrario. Penso invece che, proprio perché alcuni di questi ragazzi sono indubbiamente, sì, che siano fortunati è la base di ogni discorso, che siano troppo fortunati in alcuni casi, viziati e direi disancorati dalla realtà, e lo dimostra quell'infelice mail che ho letto prima. Io, non avendo visto le immagini, mi sono fidato di questo ascoltatore che l'ha scritto. Ha scritto indubbiamente una sciocchezza, perché queste cuffie nelle orecchie erano le audioguida per capire il percorso e per capire quello che stavano visitando. Io credo invece che sia un'occasione che andava colta. Mi pare che il fatto che questa visita italiana di stamane sia stata seguita di pochissimo da quella olandese, che 3-4 giorni fa ci fosse stata con una delegazione enorme, addirittura nazionale tedesca, significa invece che cioè è qualcosa di molto positivo. Dice: i media gli danno troppo risalto. Ragazzi, con tutto quello che i media sono costretti a raccontare di brutto sul calcio di oggi e sulle degenerazioni, in particolare alle nostre parti, beh, insomma, sarebbe imbecille non cogliere un'occasione invece per raccontare qualcosa di buono che si fa. Poi io non so dire se siano stati loro ad avere l'idea di questa richiesta di visita, ne dubito sinceramente molto, ma comunque che ci sia è indubbiamente positivo. Andrea da Lecce, buongiorno. Salve dottor Garanzini, buongiorno. Ieri ho sentito la conferenza stampa di Brandelli sul fatto di sostituire Barzagli. Lui intende sostituirlo con De Rossi, abbassandolo e facendo ripartire l'azione dal centrocampo, un po' come il Barcellona fa con Mascherano e i 3 palleggiatori a centrocampo. Io credo che, pur ammettendo che noi abbiamo dei buoni giocatori a centrocampo come Pirlo o Montolivo, non siano però all'altezza dei palleggiatori del Barcellona, quindi secondo me è un po' azzardato fare questo modulo di gioco copiando un po' quello del Barcellona e della Spagna, che più o meno hanno questo modulo di gioco. Lei cosa ne pensa? Io penso che Brandelli non abbia copiato da alcuno. Penso che abbia semplicemente, di fronte a un'emergenza, perché perdere il miglior difensore dell'intera stagione di scuola italiana e il miglior difensore a disposizione in questo europeo, comporta evidentemente una soluzione di riserva. La migliore che è venuta in mente a Brandelli è stata quella, vista anche i 3 gol presi dalla Russia, è stata quella di provare a fare quello che Luis Enrique faceva nella Roma, quindi copiando semmai qualcosa di esistente in natura, non so come dire, non un modello esterno, quando, per provare a puntellare la difesa, inseriva De Rossi, che da un lato ha grandi capacità da interditore, e quindi certamente nella fase difficile può essere un signor difensore aggiunto in più. Nella fase propositiva evidentemente ha un'idea più compiuta rispetto a Chiellini e agli altri di come si rilancia il gioco, si ripropone e magari ci si fionda verso l'area avversaria a seconda delle circostanze. A me sembra buona questa. Severino, mi pare, da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Garanzini. Buongiorno. Una domanda di calciomercato. Abbiamo scoperto dai giornali che la Juventus ha appena acquistato Isla e Asamoah dall'Udinese. Ma forse non sarebbe stato meglio tenersi i soldi per investirli, visto le prossime squalifiche su un portiere ed un difensore? Grazie. Evidentemente non pensano di aver bisogno di sostituire un portiere e un difensore, immagino. Se invece poi si porrà la necessità, correranno ai ripari. Paolo, Verona? Sì, buonasera, dottor Garanzini. Una domanda veloce. Cosa pensa dei due macroscopici errori arbitrali durante i play-off della Serie B, soprattutto dell'arbitro Massa in Verona-Varese? Ho visto forse di peggio il Sassuolo-Sampdoria, però ho visto errori gravi, abbastanza gravi. Penso, l'ho già detto due giorni fa, penso che i play-off sono contro natura, secondo me, questo, perché il calcio è una corsa, i campionati sono una corsa a tappe, i play-off ci sono già nelle coppe europee, quindi io sono nettamente contrario da sempre ad ogni genere di play-off e play-out. Fine di questa premessa. Credo che però, visto che i play-off ci sono, andrebbero affidati ad arbitri più esperti, perché è evidente che si tratta di partite ancora più tese di quelle a cui già siamo abituati. Quindi indubbiamente un errore di valutazione, secondo me, da parte dei designatori. È interessante questa dichiarazione di Allegri, intervistato da chi, che dice ci sono, gli han chiesto di provare a spiegare il fenomeno così gigantesco, no? per come si sta palesando delle scommesse di tutte le generazioni, insomma del marcio che c'è in Italia. E allora lui ha detto: ci sono allenatori che vivono con il loro staff in un piccolo bilocale perché la squadra non paga né vitto né alloggio, e poi ci sono ragazzi che militano in società inferiori e non prendono stipendi da mesi. Questo non giustifica chi ha commesso reati di frode sportiva, ma la disperazione di non arrivare a fine mese ti porta a commettere certi errori. Io nasco a Livorno, ha aggiunto, città dove si gioca, si scommette. Avevo per esempio una passione per giocare ai cavalli, ma un conto è rischiare una parte del proprio denaro, un altro è vendere o comprare le partite. Adesso qualcuno accuserà probabilmente Allegri di buonismo, e invece mi pare un tentativo di spiegazione seria, perché è lì che nasce tutto, è lì che nasce in parte il fenomeno, e cioè nel fatto che troppe società di calcio in Italia non sono in grado di mantenere le promesse di contratto e da lì le tentazioni aumentano. Due notizie per chiudere: la prima è che la Errani e la Vinci sono in finale di doppio a Roland Garros e quindi il tennis rosa di casa nostra continua a farsi sempre più onore. La seconda è che la Juventus è davvero scatenata sul mercato. Il portierino del 93 del Brescia, Nicola Leali, che è una grande speranza del calcio giovanile italiano, è praticamente della Juventus. Grazie a tutti, l'appuntamento come sempre è a domani, buon pomeriggio.